Eccoci con Alessandro Aronadio, regista del film Orecchie. Alessandro, ben ritrovato a Visionari su Onda Rossa. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, raccontiamo intanto a chi ci ascolta qual è la storia, cosa si racconta in Orecchie. In Orecchie è la storia di un uomo che si sveglia una mattina con un fischio alle orecchie, appunto, e un post-it su un frigo che dice che è morto il suo amico Luigi e che quella sera c'è stato il funerale. Il problema è che lui non si ricorda assolutamente chi sia questo fantomatico Luigi, e inizierà una tragicomica giornata tra vari personaggi, vari incontri alla ricerca della identità di questo Luigi e anche dell'origine della cura possibile di questo fischio alle orecchie. Senti, come è nato tutto? È nato dalla voglia di fare una commedia, e fare una commedia un po' diversa. Orecchie è una commedia che che ha divertito molti, ma che allo stesso tempo credo ha fatto anche pensare, perché è un po' particolare, è una commedia bianco e nero, è una commedia con dei toni tragicomici, appunto, con un attore protagonista esordiente e straordinario che è Daniele Parisi, e poi tutta una serie di attori di contorno che sono di tutto rispetto, da Rocco Papaleo, Massimo Wertmüller, Biardi Esposti, Milena Vukotic. Avevo voglia di sperimentare con la commedia, di fare magari qualcosa di un po' diverso. Senti, come mai tutte queste scelte artistiche così marcate dalla scelta del protagonista al bianco e nero e tutti gli elementi che ci stavi elencando? Guarda, perché era una commedia low budget, anzi love budget, finisco, cioè proprio chi ha lavorato al film ha lavorato per amore, perché si è innamorato del progetto, e allora ho detto: non ci abbiamo una lira, almeno facciamo proprio il cavolo che ci pare. A questo punto è un film in bianco e nero, a questo punto un protagonista esordiente, ma che già si è fatto più e più volte notare grazie a questo film, vincendo premi a Monte Carlo, al stesso Festival di Venezia, eccetera eccetera, e mi sembrava giusto, appunto, sparigliare un po' le carte anche nel genere della commedia in Italia in questo momento. Senti, il percorso com'è stato dopo i vari festival e attraverso i vari festival prima di arrivare alla sala, e come siete arrivati alla sala? Ma guarda, noi siamo partiti con questa cosina piccola storta e bianco e nero a Festival di Venezia, che insomma per noi era già un piccolo film da aiutare, e a poco abbiamo destato molta curiosità al festival, siamo stati spettatori noi stessi di un passaparola che ha portato le file fuori dalle sale a Venezia, aggiungere nuove proiezioni richieste dal pubblico, e poi via via nei vari festival in giro per il mondo, da Seul a Monte Carlo, alla Spagna, alla Polonia, così adesso sarà negli Stati Uniti. E film che è stato adottato dal pubblico in una maniera per noi imprevedibile. Il fatto che arrivi in sala adesso per noi è veramente un piccolo miracolo, e il fatto che il pubblico si diverta, ci scriva ogni volta e sia contento di aver visto questo piccolo alieno che Orecchie, non può che farci piacere, non ci aspettavamo veramente questo tipo di risposta. Alessandro, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a tutti voi e andate al cinema. ciao. Grazie, ciao.